Sono sorpreso da questo ansiolitico medito, il suicidio lurido ma stupido. Sono ormai costretto dalla decade callante e l'imbarazzo verso il prossimo. Si unisce anche allo spirito stimolo, ti invoco come spirito di illumino, di immenso. Se sapessi farlo ambresso, discolo, disubbidisce al prossimo. Ma poi dopo decenni ti ritrovi col tuo simbolo, lo simbolo. La forza è la tua forza necessaria per convincervi l'Italia. La tua scusa necessaria per proteggerti capo di caporali che non temono rivali. Sono tali come tavole di tavolo, digerite, poi sputate e rimangiate da maiali. Sporchette e peperoni come prima posizione. Stringe le tue mani amore come la donna cannone. Alla prossima elezione non votare che è il peggiore. Cosa succede poi? Le coppie scoppiano e si masticano i detriti sparsi. Come si può diventare originale dopo che Platinetto è ormai in televisione? E sanno umiliarsi l'uccello di pipette, berre birra da 10 gradi, salutare i conoscenti, credere nell'amicizia, tentare di giocare con i termini, giungere al termine, prendere il treno per Roma a termine, passerelle, scrivere monologhi, non accalappiare il lettore. Il difetto dello scrittore moderno giovane essenzialmente è lo scrivere. Il resto poi viene naturale, come ingerire dell'acqua pensandosi a grappa.